as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, siamo di nuovo qui ad Il Pane e Rose. Allora, diciamo che questa puntata è una puntata classica, una delle nostre puntate in cui parliamo di fabbriche metalmeccaniche, di operai metalmeccanici, di lotte dentro le fabbriche. Non parliamo di Bologna, non parliamo dei nostri territori, ma parliamo della fabbrica dal mio punto di vista per eccellenza, che ha fatto un po' la storia del bene e del male dei minori metalmeccanici italiani. Stiamo parlando di Pomigliano d'Arco, della fabbrica dell'FCA, ex Fiat. Avete letto tutti sui giornali che ci sono stati degli scioperi, avete visto i video dei cortei all'interno della fabbrica. La Fiomma ha ripreso forza e vigore. Non è un caso che questi scioperi vengano proprio dopo le elezioni RLS, che poi lì sono come se fossero anche le RSU, in cui la Fiomma ha vinto. Ricordiamo che in passato la Fiomma era minoranza in quella fabbrica, e questo purtroppo ha portato quello che è arrivato dopo, no? Gli accordi di Pomigliano, il CCSL, che poi è stato esteso dopo anche il referendum di Pomigliano e poi Mirafiori. Non è un caso che il referendum sia di fatti dove la Fiomma era più debole, no? Da Marchionne, vi ricordate? L'era Marchionne, e la spaccatura, la cacciata dalle fabbriche della Fiom, ricordiamo l'uscita da Federmeccanica della Fiat, insomma, sono stati anni davvero duri. Pomigliano ha cercato di resistere, ha fatto tutto quello che poteva. Ora, ne facciamo due puntate, perché l'intervista a Mimmo Loffredo, che è un mio amico, un mio compagno, un militante, noi militiamo nella stessa organizzazione politica e anche sindacale, l'intervista è lunga, dunque faremo due puntate. Questa è la prima, in cui lui ci spiegherà un po' tutto come è andato, insomma, le battaglie fatte in fabbrica e perché. La seconda ci spiegherà meglio quello che accadrà, quello che insomma anche le questioni più che altro sindacali, come la situazione complicata, insomma approfondiremo due o tre argomenti importanti che a me mi hanno molto incuriosito. Ecco, io vi lascio alla nostra scaletta musicale, non posso che non iniziare che O Padrone, però cantata da il nostro la banda popolare Emilia Rossa, che faremo una puntata perché è uscito un nuovo album, noi siamo legati a questi compagni metalmeccanici, adesso ci sentiamo O Padrone e poi ascolteremo l'intervista a Mimmo Loffredo. Ciao, a dopo. O padrone, non va due sorde, dice sempre fatica, e non ci mangiamo limone, per due sorde caccerà, per due sorde caccerà. O padrone, oggi è venuto, ci voleva parlare, va a corte che azzoppa tutte cose, e una botte ci ha guiuto là, e una botte ci ha guiuto là. Quanta luce, più miseria non c'è sta. sempre ebria, capria. Se posta, nemmeno è morta stanna buono, manco limone c'è puti me magna. E quanta luce paradiso se posta. Ciao Mimmo, allora ci sentiamo di nuovo dopo tanto tempo. Con te abbiamo affrontato diversi argomenti in passato, sei un compagno, un amico, un militante come me delle giornate di marzo all'interno della FIOM. Pomigliano, l'ultima volta che siete usciti sui giornali per gli scioperi è stato durante il Covid, avete iniziato voi, poi tante aziende vi hanno seguito, oggi però sui giornali di nuovo siete presenti. Vi faccio i complimenti per la vittoria della FIOM, finalmente Pomigliano si è riuscito a ribaltare qualcosa che era un sogno un po' di anni fa, in cui veramente la FIOM purtroppo non era il primo sindacato. Oggi avete avuto un ottimo risultato alle elezioni e sono contento perché davanti a un attacco, da quello che mi risulta, la FIOT vi ha chiesto 16 auto in più, senza assumere nessuno, senza aumentare i turni, e dunque praticamente si traduce per chi ci sta ascoltando in ritmi elevati. Vi hanno dato dei soldini, il nuovo contratto, devo dire che comunque è una richiesta ottima di aumento salariale che avete ottenuto. I giornali infatti erano pieni di notizie in cui la FIM e la CIS si vantavano di quello che erano riusciti a ottenere, però adesso a Pomigliano si sciopera e sono diversi giorni che state scioperando, e ti volevamo chiedere, insomma, di raccontare a chi ascolta il Pane delle Rose quello che è successo, come mai e tutte le motivazioni legate a questo sciopero che state facendo. Ciao Gianplacido, è sempre un piacere, insomma, risentirci. Vengo subito al dunque. Le due iniziative di scioperi che tu hai chiaramente riportato e che sono quelle là che a livello nazionale hanno avuto un risalto, sono molto diverse tra loro. Quella del periodo del Covid del 2020 fu uno sciopero fondamentalmente spontaneo da parte dei lavoratori, e che noi come FIOM coprimmo come l'unico sindacato, insomma, che cercò di dare copertura ai lavoratori in un'azione che però, torno a ripetere, nacque da tutto quello che stava accadendo nel paese e dal clima che si era venuto a creare. Questo sciopero qui ha invece una matrice completamente diversa. Noi veniamo da un periodo in cui fummo estromessi completamente dalla fabbrica e in quella fase, insomma, dopo aver vinto alcune cause, rientrammo, ma in un clima di terrore da parte dei lavoratori che faticavano anche a rivolgerci la parola. Ricordo le prime assemblee che andavano quasi deserte, solo pochi venivano alle nostre assemblee per ascoltarci. La stragrande maggioranza dei lavoratori, per paura e per timore di ritorsioni aziendali, non si presentava in azienda, non si presentava alle assemblee. E diciamo siamo partiti da quello e con un lavoro costante, lento, da parte di tutti i compagni della FIOM, insomma, siamo riusciti pian piano a riprendere, insomma, la fiducia dei lavoratori attraverso delle piccole azioni e soprattutto attraverso le contraddizioni che il CCSL poneva ai lavoratori. Ci sono stati una serie di scioperi in questi anni, una su tutti, la turnistica proprio nel mio reparto stampaggio, con un fermo durato 2 giorni anche in quel caso, che fu uno dei primi scioperi, insomma, a distanza di anni, però riguardava solo ed esclusivamente il mio reparto. Negli ultimi tempi invece abbiamo notato che, come giustamente facevi notare anche tu, che insomma la fiducia era cresciuta in maniera esponenziale nei nostri confronti e le contraddizioni del CCSL più passano gli anni più sono evidenti a tutti. Si è evinto insomma dall'esito delle votazioni dell'RLS. La volta scorsa noi raccogliemmo poco più di 600 voti, questa volta abbiamo più che raddoppiato i nostri voti e c'era una grossa attesa nei nostri confronti su quello che noi saremmo stati in grado di mettere in campo nel periodo successivo alle votazioni. Beh, non è passato molto che abbiamo capito che, perché noi continuavamo a dire ai lavoratori, guardate, il semplice voto, la semplice delega a noi della FIOM non basta. C'è bisogno di partecipazione, c'è bisogno che quando ci siano delle iniziative ci sia una risposta compatta da parte dei lavoratori. È quella l'unica strada, insomma, per provare a mettere in difficoltà e a mettere in crisi un sistema contrattuale che ha di fatto bandito lo sciopero dall'azienda e ha dato tutte le leve contrattuali nelle mani della stessa azienda. Il sindacato di fatto è diventato un megafono delle scelte aziendali. E diciamo ci sono stati una serie di eventi con incidenti importanti anche sul posto di lavoro e lì le prime risposte sono arrivate con degli scioperi anche se di reparto, anche se diciamo circoscritti, ma erano comunque risposte belle esaustive da questo punto di vista. E poi c'è stata questa volontà da parte dell'azienda però di non riconoscere di fatto che la FIOM fosse rientrata in fabbrica e che fosse diventato il primo sindacato e quindi niente, l'azienda è andata avanti così come se nulla fosse accaduto senza mai, come dire, cercare di coinvolgerci nelle scelte che metteva in campo perché forte di anni in cui ha deciso tutto lei e gli bastava insomma comunicare ai sindacati e cercava di fare la stessa cosa anche con noi. Abbiamo cercato in tutti i modi di far comprendere all'azienda che non funzionava così per noi, che per noi non c'erano le semplici comunicazioni, ma c'era un confronto nel quale noi ovviamente portavamo delle rivendicazioni dei lavoratori. Ma questa cosa è stata completamente ignorata dall'azienda, fino al punto che c'è stata questa volontà di aumento di saturazione, diciamo, della cadenza della catena di montaggio, in particolare in questo caso per quanto riguarda Panda, ma non è il primo evento, insomma, queste cose sono accadute già nel corso di questi anni con aumenti, sconsiderati e un continuo tentativo di fare efficienza. Su delle postazioni dove prima magari c'erano 3-4 lavoratori, si decideva improvvisamente dalla sera alla mattina che potevano starci anche solo 2-3 lavoratori. E quindi si toglievano posti di lavoro in continuazione, nel mentre aumentava la sacca di lavoratori RCL con delle problematicità, diciamo, create soprattutto dai ritmi che in tutti questi anni l'azienda ha tenuto a mantenere alti, creando quindi di fatto dei problemi ai lavoratori, specialmente per quanto riguarda le patologie muscoloscheletriche e quant'altro. Quindi questi aumenti c'erano stati tante volte. Questa volta però quello che è diverso è che il nostro lavoro costante, il nostro dire siamo sempre presenti quando ci sarà un problema e finalmente la fiducia da parte dei lavoratori ha fatto esplodere una risposta che ha per noi di un'enormità, è un'enormità rispetto a quello che abbiamo vissuto in tutti questi anni. Finalmente, quando l'azienda decide di aumentare da 300 a 306 vetture, senza aggiungere altri lavoratori e senza magari, modificare il layout delle linee, quindi praticamente concentrando tutto nell'attività lavorativa e nella prestazione lavorativa, quindi aumentando il ritmo, punto e basta, i lavoratori hanno deciso, insomma, insieme a noi, di affrontare questa cosa in maniera diversa. Si è partito da questo, ma come ti dicevo, diciamo, poi si sono visti un po' di immagini, video che sono circolati, non si è fermato, diciamo, tutto alla Panda. La Panda è stata, diciamo, come dire, il detonatore, il montaggio Panda è stato il detonatore di questa protesta, ma pian piano, insomma, noi abbiamo deciso di espandere di più la nostra protesta e siamo riusciti ad entrare anche in altri reparti nelle stesse giornate con dei cortei interni e diciamo che anche altri reparti hanno risposto alla grande, finalmente mettendo in crisi, insomma, il sistema di relazioni sindacali che si è creato lì dentro, in cui di fatto l'azienda decide, i delegati mandano dei messaggini via WhatsApp ai lavoratori. E tutto si fa in base a quello che sono le scelte, le volontà dell'azienda. Questa cosa per la prima volta mi viene messa in discussione e noi, insomma, stiamo cercando in tutti i modi, ovviamente, di rivendicare delle migliori condizioni per i lavoratori. Quindi questo è stato, diciamo, l'evento detonante. Poi, la cosa, diciamo, è continuata anche nei giorni successivi con altri scioperi, che sono andati altrettanto bene. E insomma, vedremo come verrà, cosa accadrà nella prossima fase. Pero solo es una estrategia. Tienen dinero en el bolsillo y la vida resuelta. Y piden unidad poniéndote falsas caretas. Piden unidad a base de sonrisa plena. Les guía el maligno por la senda no correcta. Si Satán dice tírate, todos van y lo intentan. Han vendido su alma para subir la escalera. Y dime, dime, dime. Piden unidad, piden unidad. Han creado una historia para que te la creas nada más. Piden unidad. Piden unidad. Hablan de su barrio como si fuese un suburbio letal. Piden unidad, piden unidad. Manejan un carro reluciente que pagó su papá y luego piden unidad, piden unidad. En su casa no faltó el pan que me van a comprar. No worry, no worry. Mi absolution every morning. No worry, no worry. Me hustle as the food is coming. No worry, no worry. Yeah. Babylon, na na na, stop we growing. So no worry, no worry. Be you, ah ah ah ah, the moment. gira derecha, gira a la izquierda, hacen lo que diga la gente. Miran tu vida antes que la suya solo por sentir diferente. Llevan el mando en su casa pero aquí en el porrio no dura ni ente. Están vacíos por dentro y aseguro ni lo entienden. Y den unidad al hombre del cash, buscan el vacío legal de cómo acabar con la sociedad en un tiki-tac y así amplían capital. Y den unidad a la masa perdida que apenas se recupera de la herida. Si cada familia tuviese comida no habría tanta necesidad. Piden unidad, piden unidad. Han creado una historia para que te la creas nada más y piden unidad, piden unidad. Que hablan de su barrio como si fuese un suburbio letal y piden unidad, piden unidad. Manejan un carro reluciente que pagó su papá y luego piden unidad, piden unidad. En su casa no faltó el pan que me pone a contar y prenden, prenden fuego al sudor de mi frente y prenden a los artesanos cuando venden. Prenden, prenden en la calle al indigente y prenden al que no vela sus intereses. Venden solamente lo que ellos quieren. Si venden a su madre por 20 billetes, sienten ser superiores a otros seres. No van por el camino, les guió Mefistófeles. No worry, no worry. Absolute hands every morning. No worry, no worry. Me a hustle as the food is coming. No worry, no worry. Babylon na na na stop we growing. So no worry, no worry. Be you, ah the moment. Piden unidad, piden unidad. Han creado una historia para que te la creas nada más. Piden unidad, piden unidad. Que hablan de su barrio como si fuese un suburbio letal. Piden unidad, piden unidad. Manejan un carro reluciente que pagó su papá y luego piden unidad, piden unidad. En su casa no faltó el pan que me pone a contar. Allora, avete ascoltato la prima parte di questa intervista, avete capito la situazione, è importante quello che stiamo facendo i compagni a Pomigliano, le difficoltà del passato e di come sono riusciti a cambiare la situazione. Questo secondo me deve essere una cosa utile per tutti i lavoratori metalmeccanici, spesso, ma anche nell'azienda in cui lavoro io, c'è del pessimismo, soprattutto quando alcuni scioperi non vanno bene, quando i lavoratori si dividono, quando ci sono degli scazzi tra sindacali, quando si vedono delle cose che non vanno, quando non ci si fida della burocrazia sindacale, quando ci sono degli accordi che non vanno così come dovrebbero andare, nei momenti di crisi, nei momenti in cui uno si aspetta dei risultati maggiori. Ci sono tante situazioni in fabbrica che portano un po' di depressione, sconforto. E uno spesso pensa, vabbè, cioè, non torneranno più quei momenti belli di una volta, non riusciremo a recuperare quello che abbiamo perso, stiamo andando sempre verso il baratro. Accade spesso in tutte le fabbriche, nei momenti, quando uno si fa 20-30 anni di fabbrica, questi momenti li vive più di una volta. Però la dimostrazione di quello che hanno fatto i compagni a Pomigliano è di come anche nel momento più buio, nel momento più di difficoltà, in realtà si può ribaltare tutto. Quando passi da un'assemblea in cui su 4.000 persone ti vengono in 15, 20, 30 persone e qui perdi centinaia e centinaia di tessere, sei ridotto al lumicino. Dopo un po' di anni, parliamo da 2010 a oggi, dopo un po' di anni cambia tutto. Riesci a organizzare degli scioperi in cui ti partecipa la maggioranza dei lavoratori, degli scioperi partecipati, che vinci le elezioni RLS. Insomma, metti in un angolo chi ti aveva sbattuto fuori dalla fabbrica. Io penso che è importante, è una dimostrazione di che tutto si può fare. Con la forza, il coraggio, la convinzione, senza mollare mai, si possono invertire i rapporti di forza, si può tentare di cambiare la situazione dei lavoratori in fabbrica. Ecco.